America 24 di Mario Platero. Benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Innanzitutto buon anno, un felice 2015 a tutti voi, spero che abbiate passato un buon 31, un buon cenone, e ricominciamo il programma guardando al 2015 e facendo un po' un bilancio, soprattutto nel settore tecnologico, di quello che è successo nel 2014. A blockbuster media merger in the works, Comcast striking a $45 billion deal to buy Time Warner Cable. It would combine the two biggest cable companies in the United States. Ecco, un newscast che dava notizia della fusione fra Comcast e Time Warner Cable. Ecco, devo dire, è stata una delle fusioni più importanti, anzi la più importante fusione dell'anno, del 2014, da 69 miliardi di dollari, in concorrenza con un'altra fusione più o meno nello stesso settore fra AT&T e DirecTV da 67 miliardi di dollari. Ecco, oggi vorrei parlare soprattutto di innovazione, di alta tecnologia, di quello che sta capitando in quello che è uno dei settori trainanti dell'economia americana, una di quelle nuove frontiere a cui tutti guardano quando si parla di Stati Uniti. Ecco, queste due fusioni sono importanti perché hanno rappresentato, come dire, una svolta in quello che è il canale di produzione barra distribuzione del settore infotech, quel settore che include un po' tutto, da internet fino alla distribuzione di film, di video, di musica, di prodotti digitali in genere. Ci sono state poi altre acquisizioni importanti nel settore medico. Medtronic, per esempio, ha comprato Covidien per 46,8 miliardi di dollari. E sempre in alta tecnologia, la General Electric ha acquistato la svedese Alstom, 17 miliardi di dollari. Facebook invece, e qui entriamo nel settore, diciamo, più propriamente digitale, acquista WhatsApp per 19 miliardi di dollari. Poi in agosto sono diventati addirittura 21,8. L'idea era qui di creare audience. Zuckerberg, mi ricordo, disse: WhatsApp arriverà presto a connettere 1 miliardo di persone. Si pensa dunque all'audience, ma ci sono state delle piccole rivoluzioni anche, direi, dal punto di vista del collocamento in borsa. Quella che mi ha colpito di più è Alibaba, un'azienda cinese che vuole imitare in qualche modo Amazon.com, che si viene però a quotare a New York, non a Shanghai, non a Hong Kong, a New York. Un messaggio forte, un'operazione straordinariamente strutturata. Posso raccontarvi un piccolo aneddoto: se entrate nella sala di consiglio del New York Stock Exchange, dove quindi si trova il consiglio che regola, che controlla, che gestisce la borsa americana, c'è un'enorme statua rappresentativa appunto di Alibaba in ceramica cinese, molto bella, molto bizzarra, ma comunque simbolica di questa nuova epoca. Non ci sono più confini. Un altro sviluppo nel settore high tech è più giuridico legale: Google, la grande Google, che si trova in difficoltà soprattutto in Europa, vogliono smembrarla. E poi prodotti, innovazioni che sono uscite l'anno scorso, da Google Glass, pannelli curvi nelle televisioni, stampanti 3D che entrano nel mercato con formati magari più precisi e più economici. Ecco, ma di tutto questo voglio parlare soprattutto guardando in avanti, guardando a un 2015 che parte con una sfida difficile da raccogliere in arrivo dal 2014, con Luca De Biase. Luca De Biase è il responsabile di Nova, il nostro inserto sull'innovazione del Sole 24 Ore, appunto, e aggiungo, dal punto di vista personale, grande guru del settore high tech. Luca, buongiorno, buon anno Luca, buongiorno, eccoci. Buongiorno, buon anno. Allora, hai sentito un po' quello che raccontavo, un 2014, beh, molto intenso. Come vedi il molto 2000? Molto forte. Ti sei riferito a Google, senz'altro ci possiamo aspettare per l'anno prossimo una intensificazione del posizionamento tra Europa e Stati Uniti per quanto riguarda la relazione con le grandi piattaforme, Google, Facebook per la privacy, Amazon, che resta un po' nell'ombra ma che continua a mettere in difficoltà la logistica europea e a fare passi da gigante in Europa. L'Europa cerca di posizionarsi, di ripensare la sua strategia su internet, e voi avete potuto vedere durante l'ultima fase dell'anno scorso una conflittualità crescente che continua continuerà quest'anno certamente. L'ultima notizia dell'anno è stata la chiusura di Google News in Spagna, dovuta all'ennesima conflitto tra editori di giornali e quel servizio. Ecco Luca, una domanda subito, una domanda provocatoria, perché io vedo le cose forse più dall'America, e io vedo da una parte la Cina ex comunista che prende Alibaba e le consente di quotarsi a Wall Street e crea una grande azienda di internet. L'Europa non ci riesce. Perché l'Europa non è riuscita a farsi un Amazon.com? Perché l'Europa deve continuare a proteggere il vecchio newsprint, lo dico contro il mio interesse, che ostacola Google? Non ci stiamo dando la zappa sui piedi? Innovazione significa anche, come dire, raccogliere le sfide. Sì, hai ragione, la domanda è giusta. Gli europei non sembrano in grado di contrastare le grandi piattaforme americane, non stanno creando le loro. Siamo stati bravi quando era l'epoca del G7 con la Nokia, la Ericsson, ma poi ci siamo persi. Ecco, sul piano tecnologico e vedendo le cose in America, Facebook, WhatsApp, è stata insomma un'acquisizione non da poco. Come vedi lo scenario americano? Su Facebook si è arrivati a una sorta di limite della crescita, mentre la demografia degli utenti di Facebook tendeva a invecchiare, crescevano queste piattaforme ultra semplificate come WhatsApp e loro, per non perdere la grip sulla crescita, hanno comprato la piattaforma in crescita. WhatsApp è un grandissimo successo. Ecco, c'è stato anche un interessante, come dire, stall, come si dice, ha stallato un pochino Twitter. Qual è il problema di Twitter secondo te? Perché non riesce a fare il balzo in avanti? Hanno molta timidezza nella business, nella parte di raccolta di pubblicità, hanno un linguaggio limitato, i 140 caratteri in fondo sono quelli, stanno cercando di aggiungere le foto ultimamente, non è altrettanto ricco il tipo di comunicazione che si fa su Twitter di quello che si fa su Facebook, e poi Twitter si è posizionato diciamo sulla fascia alta del pubblico, mentre Facebook è molto più popolare. Sì, ecco, devo dire, facendo un'osservazione, mi accorgo molti degli utenti di Twitter non hanno capito che Twitter è quasi uno strumento di lavoro professionale, più che un social nel senso classico del termine, nel senso metto le foto dei miei figli. E credo che Twitter stesso debba fare questo passaggio, rendersi conto che ha un potenziale enorme magari verso altre direzioni. Luca, parliamo anche di prodotti, perché sono sicuro che quelli che oggi, 1 gennaio, pensano al 2015 vogliono sapere cosa potranno comprarsi di nuovo. Se ti viene in mente qualcosa, ormai abbiamo visto pannelli curvi, persino insomma l'iPhone grande, poi quello medio, insomma, c'è tutto. Cosa possono darci di nuovo? Ma anche quest'anno si apre con il CES, la fiera dell'elettronica di consumo a Las Vegas, sicuramente ci saranno tanti orologi di varie forme, fattezze, naturalmente ipertecnologici che fanno tante cose come quelle che ha lanciato Apple pochi mesi fa. E poi tutti questi device per il controllo della salute, per dormire bene, per controllare il peso e la dieta, ci sono infinite possibilità del quello che si chiama wearable. Io mi aspetto magliette con la capacità di dare dei messaggi vari, mi interessano molto le forme con le quali i sensori entrano nell'abbigliamento. Sulla televisione vediamo che la televisione fa pochi salti, riesce a mantenere il controllo della situazione molto meglio di altri mercati, naturalmente alimentando una crescita della qualità dell'immagine e del suono. Però non ci dimentichiamo le cose che stanno venendo fuori e che già da quest'anno cominceranno a significare molto. Al CES ci aspettiamo molti robot per la casa, dei pet robot che fanno compagnia, e poi ci sono i droni. Ecco, i droni, scusa Luca, ti interrompo perché è una cosa che mi ha colpito molto. Ero al vertice della NATO in Galles, in Gran Bretagna, a settembre scorso. C'erano dei militari britannici che facevano facevano volare dei minuscoli elicotteri, ma microscopici. Tu hai parlato di robot, hai parlato di droni, erano dei droni privati con cui uno poteva andare a controllare, che ne so, se il figlio stava facendo i compiti. Era una cosa incredibile, insomma, era un balzo nel futuro e anche la spiegazione di come la tecnologia militare poi si traduce in tecnologia del giorno per giorno. Ecco, cosa vedi nei droni? Ma guarda, i droni sono affascinanti. La gente, oltre a usarli per il lavoro, li sta usando per il divertimento, per fare delle riprese. Certo, ci sarà da affrontare il problema legale, perché per la sicurezza delle persone tutte le città stanno limitando la possibilità di usare i droni come si vuole, ma non è certo questo che fermerà il progresso. La volontà di connettersi, di vedere, di divertirsi, di avere delle macchine che accompagnano la vita quotidiana crescerà, e questo è effettivamente una possibilità importante anche per gli europei, per gli italiani, che stanno costruendo nuove macchine impensate che ci accompagneranno per quest'anno con delle sorprese notevolissime. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, la prima canzone del 2015. Dedichiamola alla tecnologia, al futuro dei Daft Punk. Technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, next yeah, we name it. Yeah, technologic. Yeah, technologic. Yeah. Technologic. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!